Desidero leggervi alcune storie tratte dal mondo sufista. Il sufismo ha elaborato un ampio repertorio di storie istruttive che mancano di un destinatario particolare, in modo che ciascuno possa intenderle in base alla propria consapevolezza e al proprio stadio evolutivo. La lettura di questi racconti stimola la mente a un diverso funzionamento, impedendole di cadere nei luoghi comuni e negli schematismi abituali. Da questo punto di vista, l'essenza del materiale narrativo rivela la propria affinità con le parabole evangeliche, i dialoghi taoisti, i sermoni del Buddha o i koan dello Zen, cioè situazioni in cui viene suscitata una speciale attitudine del pensiero. Non si tratta di imparare nuove cognizioni, quanto di percepire l'esistenza con altre modalità. Dopo aver ascoltato queste storie, ci si sente diversi, senza sapere perché. A volte senza neppure accorgersene. Il cane e la via. Un derviscio disse: un giorno finalmente decisi di incamminarmi sul sentiero. Tuttavia non sapevo come procedere. È strano, fu un cane a suggerirmelo. Si era fermato davanti a una pozzanghera e la sua figura si rifletteva nell'acqua. Subito mi accorsi che era impaurito e non smetteva di contemplare la sua immagine. In realtà, credeva che un altro cane lo stesse minacciando. Ecco perché non si muoveva, per paura di essere attaccato. Ma poi, finalmente, vinse l'esitazione e si gettò nella pozzanghera. Fu allora che, come per incanto, l'altro cane svanì, lasciandolo padrone del campo. Riuscite ora a capirmi se vi dico che fu un cane a indicarmi la via? La trappola. Una volta una volpe fu presa in trappola, ma, animale astuto, possedeva molte risorse. Mi fingerò morta e mi lasceranno andare. Uno dei cacciatori le si avvicinò. La volpe sembrava inerte. C'è rimasta secca? Tanto peggio per lei. Posso sempre tagliarle un orecchio. L'animale ebbe un fremito, ma riuscì a non farlo trapelare. Dopotutto, meglio perdere un orecchio che la vita, pensò, cercando di mitigare il dolore mentre la lama affondava nelle carni. Un altro cacciatore si fece avanti. Dunque è morta. Non importa, le strapperò la lingua. La volpe fu di nuovo colta dall'angoscia. Meglio muta che morta, in ogni caso. Alla fine fu la volta del terzo cacciatore, il più bramoso di tutti. Le toglierò il cuore. Ho sentito dire che può essere un ingrediente di potenti farmaci. A quel punto la volpe non poteva più fingere. Spiccò un balzo con tutte le sue forze e miracolosamente riuscì a uscire dalla trappola. In pochi secondi era già sparita tra il fogliame. Gli svantaggi della conoscenza. Nell'antichità viveva un grande sovrano, esperto di astrologia. Per i suoi studi aveva speso molto e passato notti insonni. A un certo punto, finalmente, imparò l'arte di interpretare le stelle, ma scoprì che sarebbe stato vittima di una disgrazia. Da allora si fece più apprensivo, timoroso e diffidente. Devo assolutamente evitare l'incidente, pensò. Mi farò costruire una torre di pietra, così che niente e nessuno possa mai penetrarvi. Qualche tempo dopo l'edificio fu ultimato. L'uomo allontanò persino le guardie del corpo per evitare tradimenti. A quel punto, nell'isolamento totale, non c'era più nulla da temere. Chi mai avrebbe potuto attentare alla sua vita? Un giorno, però, si accorse che un minuscolo pertugio filtrava la luce del sole. Allora andò su tutte le furie. Da quel varco potrebbe entrare una freccia. Devo affrettarmi a ostruirlo. Così il re vietò anche l'ultimo contatto con il mondo. Ma questo gli fu fatale. Senza aria, la morte per soffocamento fu rapida e inevitabile. In effetti, le stelle non si erano sbagliate. L'anello della gioia. Un sovrano aveva conquistato il mondo intero, ma in cuor suo non era felice e passava le ore singhiozzando. Sento che un giorno la fortuna finirà. I miei domini saranno calpestati dalla polvere del tempo. Allora decise di chiamare a consulto i maestri sufi di corte. Come posso ottenere la felicità? Uno di loro si fece avanti e disse: Maestà, ho quel che fa per voi. A tempo debito soddisferò le vostre esigenze. Di che si tratta? Chiese il re incuriosito. Farò incastonare un anello, incidendovi sopra una frase. Ogni volta che la leggerete, capirete il valore della gioia. Il gioiello sarà il vostro baluardo contro il mondo materiale. Il re stentava a crederci, ma ordinò ugualmente al sufi di mettersi all'opera. Il lavoro fu sbrigato in breve tempo, e alla fine l'anello recava una scritta dorata. Anche questo passerà. Bayezid abita qui? Bayezid, il grande maestro sufi, conduceva un'esistenza solitaria nel deserto. Ma un giorno un messaggero del re andò a trovarlo. L'uomo doveva riferirgli che il sovrano lo voleva a corte per i suoi preziosi consigli. Bayezid abita qui? Dopo una lunga pausa, il sufi rispose: Questo nome non mi è nuovo. In effetti, molti anni fa ero amico di questa persona, ma ora vivo tra la sabbia, con la polvere per compagna. Mi interesso dell'Eterno, senza più riporre fiducia nei nomi. Qualche istante dopo, il saggio aggiunse: L'uomo che stai cercando era molto avido. Di certo avrebbe accettato la tua offerta. Ma io l'ho abbandonato da tempo, e chissà dov'è finito. Nelle grinfie della morte. Un giorno la morte apparve tra i saloni della reggia. Il sovrano la riconobbe e ne ebbe paura. Ho visto la morte. È un segno di sventura. L'uomo decise di fuggire. Lasciò subito la capitale per trovare scampo nel deserto. Ma pochi giorni dopo, l'angelo della morte era intento a passeggiare sulla sabbia. Che strano, pensò. Mi era stato ordinato di recarmi alla capitale per prendere il re. E ora sto camminando nel deserto. Chissà cosa mi ci ha spinto. Appena finì di parlare, dietro una duna, la morte si imbatté nella sua vittima e capì tutto. Ma il re, invece, come avrebbe potuto sfuggirle? Come il gioco degli scacchi. Una volta domandarono al folle: Come vedi il mondo? L'uomo ci pensò sopra, per rispondere così: Il mondo mi sembra un'immensa scacchiera in cui il pesce grande divora il piccolo. A volte è tutto ben ordinato, a volte no. C'è chi perde la propria postazione perché un altro gliela invade. Il ruolo del sovrano è tutt'altro che invidiabile. Tutti cercano di spodestarlo, finché un giorno ci riescono. Si persegue la vittoria e il successo, proprio come nella vita. Dopo una breve pausa, il folle aggiunse: Ma è questo a preoccuparmi. Non so mai dove finisce il gioco e inizia il mondo. Il senso della morte. Dall'alto di una montagna, un sasso e una zolla precipitarono nell'oceano. La distesa d'acqua era molto profonda. Il sasso pensò: Ecco, sto annegando negli abissi. È una sorte disgraziata. La zolla pensò: Finalmente il mio terriccio si sgretola nel contatto con l'acqua, e di me non resta più nulla. dissolta, sono ormai fusa con l'oceano. È una sorte fortunata. Un sufi, per caso, udì queste parole e pensò: è vero, la morte può essere vista in vari modi, come angoscia o beatitudine, distruzione o mutamento. Queste creature oggi mi hanno impartito un grande insegnamento. La preghiera migliore. Nella moschea, il predicatore concludeva di solito la preghiera collettiva con questa formula: così sia. Ma il folle un giorno capitò sul posto e chiese a uno degli adepti: perché dite così sia? Perché con questa formula esprimiamo la speranza che Dio esaudisca le nostre richieste. Che strana preghiera è la vostra, disse il folle. Volete indurre l'Eterno ad agire per il vostro tornaconto, oppure, nel migliore dei casi, nella direzione suggerita. Non sapete che è un comportamento da pazzi? La preghiera migliore, infatti, si recita in silenzio. In cerca della madre. In un grande bazar, un giorno, trovarono un bambino. Era solo e si guardava intorno come se avesse paura. Piangeva a calde lacrime. «Hai perso di vista tua madre?» chiese uno dei passanti. «Sì», replicò il bambino, singhiozzando. «E non so dove è andata». «Dici almeno come si chiama per facilitarti la ricerca». «Non lo so». «Dici allora dove abiti, ti riporteremo a casa». «Non lo so». I passanti erano sconcertati e insistevano, senza alcun esito, a interrogare il bimbo. «Ve l'ho detto, non ricordo dove abito e non so il nome di mia madre. So soltanto che l'ho persa e vorrei ritrovarla a ogni costo». Un derviscio capitò lì e si limitò a osservare. Non è forse questa la condizione di ogni uomo, proteso alla ricerca dell'origine? L'eremita e il commerciante. Un sufi aveva viaggiato ovunque e conosceva bene il mondo. Per questo la gente non smetteva mai di interrogarlo. «Maestro, dici, quanti tipi di uomini hai incontrato?» «Molti», rispose il saggio, «ma due soli con cui valesse la pena di discutere. Uno era un eremita e non diceva bene o male di nessuno. L'altro era un commerciante e parlava sempre bene di tutti». Il disegnatore. La gente sapeva che in realtà il folle deteneva una grande saggezza e qualcuno provò a interrogarlo. «Cosa pensi che faccia Dio tutto il giorno?» L'uomo apprezzò la domanda e dopo una pausa di riflessione replicò: «Hai mai visto i bambini disegnare? Tracciano le linee degli alberi, dei monti e degli oceani. Poi di colpo le cancellano per ricominciare da capo. Quanto a te, puoi concepire un Dio diverso che non si limiti a disegnare e a cancellare?» Una piccola considerazione. Omar era un uomo pio e passava la giornata in preghiera e facendo esercizi spirituali. Aveva una grande fede in Dio. Una notte, l'Eterno parlò di lui a Mosè. «Digli pure che l'ho iscritto nella lista dei dannati, destinandolo all'oscurità più nera». Il patriarca, a malincuore, si apprestò a eseguire l'ordine. Egli amava Omar e non capiva il senso dell'azione divina. Alle parole di Mosè, il pio reagì così: «Sono felice di quanto riferisci. Fino a poco fa Dio non si curava di me. Ora invece mi sento preso in considerazione. Egli, addirittura, ha deciso di rivelarmi quale sorte mi riserverà. Da questo momento le cose mi sembreranno ancora più belle. Gli oceani, i monti e le creature tutte mi appariranno in una luce sfavillante nell'annuncio del suo nome. Come potrei mancare di riverirlo dopo le sue attenzioni? Quella stessa notte Mosè fece un sogno, in cui l'Eterno tornava a parlargli. Omar è un uomo pio. Non agisce per abitudine o meccanicamente. La sua fede è autentica e il suo animo è sincero. Ho voluto metterlo alla prova. Ora so che mi è fedele. Il giorno dopo, Mosè fu ben lieto di comunicare a Omar che l'Eterno lo aveva collocato tra i beati. In effetti sta scritto: l'uomo pio non si separerà mai dal suo Signore. Potenza del nome. Uno stolto chiese a Gesù di rivelargli il nome di Dio. Gesù era restio a causa dell'immaturità dell'interlocutore. Ma quello insisté e alla fine la richiesta fu esaudita. Qualche tempo dopo, lo stolto si trovò a passeggiare nel deserto. All'improvviso, tra la sabbia, un mucchio d'ossa destò la sua attenzione. «Ecco una buona occasione per verificare le mie cognizioni», pensò. Appena l'uomo pronunciò il nome di Dio, le ossa cominciarono a riprendere vita. Alla fine, dal mucchio inerte, uscì un leone possente. Con un balzo, la belva si gettò sullo sciocco. In un sol boccone ne straziò le carni. C'è qualcosa da imparare da questa storia? Sì. Non sempre il sapere è auspicabile. Lo sciocco non ebbe neanche il tempo di pentirsi della propria insistenza. Il più stupido. Un giorno il Signore del mondo dovette abdicare. A chi mai avrebbe lasciato i suoi domini? Non voglio essere confuso con i miei predecessori. In passato il mondo è sempre stato affidato ai più capaci, ai più intelligenti e ai saggi. Io invece designerò come successore il più stupido dei miei schiavi. Finalmente, dopo minuziose indagini, il dominatore trovò l'uomo che cercava. In effetti, nel corso degli anni, il nuovo sovrano non si smentì. Era proprio uno stolto. Una volta imperversò un violento uragano. I raccolti furono devastati e la gente, disperata, si precipitò al palazzo reale per un risarcimento. Lo schiavo che governava il mondo disse: «Siete proprio sciocchi! Perché mai al posto del cotone non avete seminato la lana?» La gente approfittò dell'occasione per criticare il vecchio governante. Ma un uomo si fece largo tra la folla e disse: «Fate male a biasimarlo per aver scelto uno stupido. Riflettete. L'alchimista spreca tempo e salute nella ricerca dell'oro, mentre lo sciocco inciampa casualmente in un gioiello smarrito, decretando la sua fortuna. Perché allora esaltare la conoscenza a scapito della stupidità?» Una discussione. Un giorno ci fu un'animata discussione tra un esperto e uno stupido. Contrariamente alle aspettative, fu il primo ad avere la peggio. Infatti non riuscì a replicare all'ultima asserzione del suo interlocutore. «Ma come? Ti sei lasciato sconfiggere da uno sciocco?» gridò uno degli ascoltatori. «Certo», rispose l'esperto. «Io facevo affidamento sulla logica, mentre il mio avversario non prestava attenzione alle obiezioni e parlava di tutt'altro, facendo discorsi senza senso. Ecco perché a un certo punto ho preferito abbandonare il campo». Pochi minuti dopo, uno dei presenti osservò: «Forse possiamo imparare qualcos'altro da questa storia. In ogni conversazione è sempre meglio scegliersi gli interlocutori giusti». Una lezione di umiltà. Il re guardava con disprezzo un giovane derviscio. Allora, a un certo punto, quello ruppe il silenzio. «Maestà, come puoi classificare gli uomini in base alla potenza? Certamente io sono inferiore a te, quanto a proprietà, ma nelle cose dello spirito ho qualcosa da insegnarti. Perciò non considerare la mia giovane età, ma cerca di capire che siamo tutti uguali di fronte all'Eterno». Il sovrano capì immediatamente la lezione, ammirando la saggezza del ragazzo. Il blasfemo. Un derviscio viveva in miseria e non poteva comprarsi neanche un paio di scarpe. Ho dedicato la mia vita all'Eterno per essere ricompensato così. Devo camminare a piedi scalzi rischiando di ferirmi. Ma qualcuno lo rimproverò. Non essere blasfemo! Qualche giorno dopo il derviscio entrò nella moschea per la solita orazione quotidiana. A un certo punto notò nell'oscurità una strana figura. Osservò meglio e vide che si trattava di un uomo senza piedi. Al posto degli arti posteriori, costui aveva due moncherini. Da quel giorno il derviscio considerò la sua povertà in un'altra luce. Ignoranza e conoscenza. Il discepolo di un sufi si vantava delle proprie cognizioni, ma un giorno fu trovato impreparato, non riuscendo ad affrontare una certa questione. Allora si recò dal suo maestro per chiedere consiglio. Come molti sufi, questo saggio leggeva nel pensiero e disse: «So già cosa ti è successo. Chi è causa del suo mal, pianga se stesso». «Che vuoi dire?» replicò il discepolo. «Mi spiegherò meglio. Come pensi sia riuscito ad attingere alle mie conoscenze? Poiché non ci arriveresti, te lo dirò io. Non ho fatto altro che chiedere istruzioni ogni volta che ignoravo qualcosa. Se tu fingi di conoscere certe nozioni, come potrai mai possederle? D'ora in poi, da retta a me. Ciò che non sai, ammetti di non saperlo. Solo in questo consiste la vera conoscenza». L'incontro. Due amici si incontrarono dopo molto tempo. Uno disse: «Sei stato all'estero?» «Ho viaggiato molto», rispose l'altro. «Sei contento che ci siamo ritrovati?» «Ma certo, ardevo dalla voglia di vederti!» L'amico ascoltò attentamente, poi disse: «Se io fossi stato sempre accanto a te, ti avrei annoiato. Così, invece, l'assenza ha suscitato il desiderio. Credimi, è stato molto meglio». Questione di prospettive. Un giorno, il corteo reale passò davanti alla casa di un derviscio. Nello stesso istante, l'uomo uscì e si imbatté nel suo sovrano. Ciò malgrado, non accennò alcun tipo di saluto. «Che zoticone!» gridò il re. «Costui manca della buona educazione!» Una guardia si avvicinò al derviscio e gli domandò: «Come hai osato tu, un misero suddito, astenerti dal riverire il tuo signore?» L'uomo rispose: «Da quando in qua sono i sudditi ad avere bisogno dei re? I sovrani non sono forse creati per il benessere del popolo?»